appunto il beneficio. Altro che, altro che. A che potenza le arrivò l'elfo? Beh, vediamo, vediamo. Tanta voglia di riposare, potreste riposare questa sera, son quasi addormentato. Sì, messer Buoso, ma va meglio. Sento, è migliorato, e a me non è mai morto un ammalato. Non ho delle pretese, il merito del mondo della scuola.